Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un morto e quattro feriti, di cui tre minorenni, nello scontro tra due auto ieri sera sulla strada tra Trieste e Sant'Orligo. Terza scossa di terremoto in sette giorni a Clout si è verificata ieri sera, ma non ha provocato danni. Bilancio positivo in anni di emergenza, il presidente della regione Fedriga tra obiettivi raggiunti e prossime elezioni. Pronto soccorso di Udine, piano di emergenza ricoveri, pazienti nel day hospital, manifestazione di protesta fuori dall'ospedale. Stupro di gruppo a Lignano, dopo un anno e mezzo la procura di Udine chiede l'archiviazione per gli indagati. Rilanciare Udine e Friuli, l'ex rettore De Toni si candida sindaco, lo appoggia una coalizione progressista senza 5 Stelle. Tempo di traslochi per molti studenti di Trieste con il via alle ristrutturazioni di una serie di edifici scolastici. Torna il Natale subacqueo al lago di Cornino, il programma delle messe nei capoluoghi, le mostre da visitare durante le feste. 7:19 minuti di sabato 24 dicembre. Buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. In apertura uno sguardo al meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Le temperature registrate alle 6 a Trieste 9 gradi, a Udine 7, a Gorizia e Pordenone 6 gradi e mezzo, a Tolmezzo 6 gradi, a Tarvisio 2, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 0 gradi, a Sappada meno 2, sul Monte Lussano 5 gradi, sul Monte Zoncolan 4, a Lignano e Grado 8 gradi e mezzo. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: su bassa pianura, costa orientale, Carso, cielo in prevalenza coperto con possibile piovigine. Sulle altre zone, cielo variabile o nuvoloso, saranno probabili foschie e possibili anche nebbie, specie su pianure costa, in montagna moderate inversione termica a fondovalle. Intorno alle 19:30 di ieri a Domio, in località Mattonaia, è avvenuto un incidente mortale che ha coinvolto due auto lungo la strada che porta a Sant'Orligo della Valle. Vittima un uomo di 61 anni di Trieste, Dionisio Gerbassi, alla guida di una delle due auto che si sono scontrate per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ma che a una prima ricostruzione sarebbero da ricondurre all'invasione della corsia opposta da parte di uno dei due veicoli. Ferita in modo grave una ragazza di 13 anni che si trovava a bordo dell'altra auto guidata da una donna di 42 residente a Sant'Orligo. La 13enne ha riportato un trauma cranico ed è ricoverata all'ospedale di Cattinara con riserva di prognosi. Ferite lievi per la conducente dell'auto e per gli altri due figli di 9 e 11 anni. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale triestino di Cattinara in prognosi riservata. Sul posto ambulanze del 118 di Trieste, vigili del fuoco, carabinieri e militari dell'operazione Strade Sicure. Ancora cronaca, gravi ferite sono state riportate da un uomo a seguito della caduta autonoma dallo scooter accaduta nella notte in via Schiaparelli a Trieste. Sul posto l'equipaggio di un'auto medica e quello di un'ambulanza. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Scossa di terremoto ieri sera alle 21:46 con epicentro a 9 km a est-nord-est di Clout. È il terzo evento sismico nella zona nel corso dell'ultima settimana, scosse comunque sempre di magnitudo bassa a una profondità di 12 km. La scossa è stata registrata dal Centro Ricerche Sismologiche dell'OGS. Non si sono registrati danni a persone o cose. Voltiamo pagina, una conferenza di fine anno che è stata di fatto una conferenza di fine mandato, quella del presidente della regione Massimiliano Fedriga, che aveva già annunciato di ricandidarsi alla guida della regione con una sua lista. 5 anni di difficilissima emergenza, questa è la sintesi di Fedriga del bilancio dell'esecutivo caratterizzato da più di una crisi. Una legislatura delle emergenze, così il presidente Massimiliano Fedriga ha definito i suoi quasi 5 anni al potere nella conferenza stampa di fine anno, che si è trasformata di fatto in un bilancio di fine mandato. un lustro caratterizzato da eventi imprevedibili e di grande impatto come la tempesta Vaia, il Covid e la guerra russa in Ucraina. 45 minuti al microfono per riassumere le azioni di governo, a cominciare dagli accordi con lo Stato che hanno permesso di ottenere 2 miliardi in più. Fedriga ha snocciolato i dati che pongono quella del Friuli Venezia Giulia tra le economie più in salute d'Italia, ma ha aggiunto che bisogna continuare a investire per mantenere alta l'attrattività. Portata a casa l'autonomia sulla finanza locale con l'IMU diventato regionale, tra gli obiettivi in caso di riconferma alla presidenza ci sono l'elezione diretta delle province e la regionalizzazione della soprintendenza. Sulla sanità il presidente Fedriga non nasconde le difficoltà. Si possono ripercorrere le medesime criticità in tutte le regioni italiane. Purtroppo la carenza di personale, la carenza soprattutto del personale in emergenza-urgenza, rappresenta un problema a cui abbiamo chiesto al governo di fare un tavolo per affrontarlo insieme. Tra le priorità il completamento del passaggio della concessione da Autovie Venete ad Autostrade Alto Adriatico, anche se i tempi dei lavori per la terza corsia non possono essere compressi senza nuovi fondi. Adesso o ci sono nuove risorse che arrivano per velocizzare i lavori, oppure i tempi sono quelli che tutti avevano concordati prima che arrivassi io. Voglio ricordare, prima che arrivasse questa presidenza di regione. Entro la prossima settimana la giunta fisserà la data delle elezioni, che sarà o a inizio aprile o a inizio maggio. Sulla lista che porterà il suo nome alle regionali nulla è stato deciso, ma è credibile l'ipotesi che entrino a farne parte membri della giunta attuale, ha rivelato Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Assai discutibili i risultati vantati dal presidente Fedriga, come possono attestare i cittadini che stanno peggio rispetto a 5 anni fa, è stato il commento del segretario regionale del PD Renzo Oliva, secondo cui straordinari sono stati i mezzi finanziari messi a disposizione della regione, dai sostegni nazionali in pandemia al PNRR alle rinegoziazioni del patto con lo Stato, azioni consentite da scelte di governi cui le forze del centrodestra non hanno lesinato posizioni critiche. Per l'IVA la sanità è la cartina di tornasole di una situazione complessivamente negativa. Gianni Cuperlo si è candidato alla segreteria del Partito Democratico e correrà quindi alle primarie contro Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli. Ad annunciarlo lo stesso Cuperlo, deputato in carica, rientrato in Parlamento in questa tornata dopo 3 legislature in passato e componente della direzione nazionale del PD. Cuperlo è nato a Trieste 61 anni fa. È pronto soccorso ingolfati in questo periodo in cui il Covid si intreccia, l'influenza, Udine, il culmine delle difficoltà. C'è stato martedì scorso, tanto che dopo una riunione notturna dell'unità di crisi alla presenza del direttore sanitario è stato attivato il piano di emergenza che prevede la riduzione delle attività di day hospital per spostare i pazienti del pronto soccorso in quel reparto, piano questo che diventerà pienamente operativo dal prossimo lunedì. Ieri l'Associazione dei Diritti del Malato, insieme ai comitati a difesa degli ospedali di Gemone e Cividale e a diverse sigle sindacali, ha organizzato un sit-in davanti all'ospedale di Udine per chiedere un cambio di passo nella sanità regionale. Secondo i partecipanti è proprio il ridimensionamento dei nosocomi di Gemone e di Cividale a determinare il sovraffollamento del pronto soccorso di Udine, generando un allungamento delle liste d'attesa per visite ed esami. Da qui la richiesta rivolta alla regione di rafforzare i presidi sanitari territoriali. E ora la cronaca giudiziaria che ci riporta al presunto stupro di gruppo dell'estate dello scorso anno a Lignano. La procura di Udine, con il sostituto procuratore Andrea Gondolo, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Udine, Emanuele Lazzaro, l'archiviazione del caso del presunto stupro di gruppo a Lignano Sabbiaduro avvenuto il 10 agosto del 2021. Le indagini erano scattate dopo la denuncia di una 18enne friulana che aveva affermato di essere stata violentata da 5 ragazzi in un appartamento. Una vicenda complessa che ha portato sotto indagine 2 ragazzi della provincia di Verona, 2 lombardi e un piemontese, tutti tra i 18 e 21 anni, con l'eccezione di un minore. Stando al racconto della friulana, 3 di loro, poi raggiunti degli altri 2, l'avrebbero portata nell'appartamento con la forza, trattenendola per altre 2 ore. La presenza di un minore aveva fatto dividere in due il procedimento, la procura di Udine per i maggiorenni e quella dei minori di Trieste. E proprio il GIP del Tribunale di Trieste, alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura dei minori, la aveva rifiutata disponendo un supplemento di indagini, come ci dice il legale della parte offesa Paolo Viezzi, che a sua volta si è opposto anche all'archiviazione chiesta dalla procura udinese. Non la condividiamo perché, a parere nostro, alcuni elementi emersi nella fase istruttoria non sono stati considerati, e non la condividiamo perché quelli considerati, diciamo, hanno sicuramente un'interpretazione possibile diversa rispetto a quella fornita dalla procura. Paradossalmente questo processo potrebbe avere due iter diversi. Sì, nel senso che la posizione del minorenne che è stata trattata dal Tribunale dei Minori di Trieste, quel procedimento prosegue e teoricamente potrebbe avere un epilogo diverso e in contrasto con quello possibile per i maggiorenni. Il GIP si è riservato il pronunciamento e dovrà decidere tra l'imputazione coatta, il supplemento di indagine e l'archiviazione. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, è finito in manette con l'accusa di tentato omicidio un 56enne del napoletano arrestato a Cividale. L'uomo due settimane fa avrebbe tentato di uccidere il fratello al culmine di una lite per questioni ereditarie, cospargendo nel capo il corpo con liquido infiammabile e tentando di innescare le fiamme con un accendino. La vittima era riuscita a fuggire, liberandosi del giubbino intriso di benzina. A dirigere le indagini la procura di Napoli Nord, a dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere i carabinieri campani insieme con quelli di Cividale. E la polizia ha arrestato tre persone a Staranzano, ritenute autori di furti in abitazione e in un supermercato. Si tratta di una giovane donna residente in zona e di due uomini provenienti dal Veneto, di cui uno pregiudicato. La polizia lo ha individuato in un fondo agricolo dove si era accampato in una tenda assieme ai due complici. I tre hanno tentato la fuga nei campi. Un 19enne non ha opposto resistenza agli agenti, mentre la donna e l'altro uomo di 34 anni hanno minacciato e insultato gli agenti prima di aggredirli fisicamente, la 21enne in particolare spruzzando uno spray urticante sul volto di due poliziotti. La coppia è stata bloccata e arrestata. L'autoproduzione è l'obiettivo degli industriali della regione per superare il caro energia. In questa direzione va l'impianto fotovoltaico che verrà realizzato a Santa Maria la Longa e a Pavia di Udine dal gruppo societario multiservizi di A2A. Sarà in grado di soddisfare il fabbisogno annuo di energia elettrica di oltre 30.000 famiglie l'impianto fotovoltaico previsto nel progetto Santo Stefano, che sarà realizzato nei comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine e i cui lavori dovrebbero partire nel corso del 2023. Terminata la realizzazione, l'infrastruttura avrà una capacità installata pari a 59,1 MW di picco, produrrà oltre 85 GWh annui e consentirà di ridurre il consumo di gas naturale annuo di circa 16 milioni di metri cubi, evitando in questo modo l'emissione di 36.000 tonnellate di CO2. Nell'operazione è entrato ora anche il gruppo A2A, che ha sottoscritto con Volta Gestione Energie un accordo che prevede l'ingresso della sua controllata AEB con quote di maggioranza in VGE05SRL, la società che ha ottenuto l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Il completamento dell'operazione di ingresso nella società è previsto entro il primo semestre 2023. L'impianto sarà realizzato nella parte orientale del territorio di Santa Maria la Longa, nella frazione di Santo Stefano, al confine con Trivignano-Udinese e in minima parte a Pavia di Udine. Nessuna contrarietà al fotovoltaico, commenta il sindaco di Santa Maria la Longa Fabio Pettenà, anche se avrei preferito che la regione avesse fissato dei limiti e che la localizzazione dell'intervento fosse stata condivisa. Confidiamo comunque che l'opera venga realizzata nel rispetto di tutte le misure definite in sede di conferenza dei servizi. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentata ieri la candidatura dell'ex rettore Alberto Felice De Toni a sindaco di Udine, a sostenerlo un'ampia compagine di centro-sinistra. Il servizio. Costruire un programma di governo partecipato, partendo dal confronto coi cittadini e i quartieri, integrare maggiormente Udine nelle reti europee e rilanciare la città attraverso uno dei suoi maggiori punti di forza, l'università. Parte da qui la candidatura di Alberto Felice De Toni a sindaco di Udine per il centro-sinistra. Una candidatura civica di scopo, la definisce lo stesso De Toni, già rettore dell'Ateneo Friulano dal 2013 al 2019. Abbiamo immaginato progetti importanti come l'Unidoc, cioè ovvero fare insieme a Friuli Doc, fare tutto quanto un'operazione nazionale e internazionale sul tema dell'alimentazione, coinvolgendo le università, ma coinvolgendo anche i distretti dei vini, i distretti del prosciutto. Centrali nel programma di De Toni anche il tema della sicurezza, a cominciare da Borgo Stazione, e dell'urbanistica, col recupero di aree come l'ex Cinema Odeon e l'ex Safau. Noi dobbiamo assicurare la legalità e reprimere la criminalità, però dobbiamo anche attivare delle soluzioni di tipo culturale, sociale, professionale, eccetera. Ad appoggiarlo una coalizione a tridente formata dai partiti di area progressista PD, Azione Italia Viva e PSI, dagli autonomisti di Patto per l'Autonomia, Progetto Innovare e Siamo Udine, e dal mondo associativo rappresentato da Costruire il Futuro e Coesis. Resta per il momento fuori da questo campo largo udinese il Movimento 5 Stelle. Udine, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il centro congressi del Molo IV a Trieste è pronto ad ospitare la scuola Corsi, che il prossimo anno sarà sottoposta a importanti interventi di manutenzione. Ma l'occupazione in via temporanea di un'altra sede riguarda anche altri istituti scolastici cittadini. Tempo di traslochi per molti studenti di Trieste. Fondi del PNRR e fondi regionali permetteranno l'inizio di lavori di ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Da settembre, per almeno 2 anni, i circa 400 studenti del plesso della Sauro Spaccini dovranno trasferirsi. La materna ed elementare alla ex Timeus in Largo Pestalozzi, la succursale della Media Dante nel Palazzo Centrale di Via Giustiniano, preoccupati i genitori degli studenti. Michela Spena, rappresentante genitori Scuola Sauro. Tutti noi abbiamo fatto una scelta in una scuola del centro cittadino proprio con motivazioni logistiche tra casa e lavoro. Lo spostamento che ci viene proposto è uno spostamento ben lontano da questa zona. A queste perplessità risponde l'assessore all'istruzione Nicole Matteoni. Gli scuolabus sono difficili da attivare, ma pensiamo di lavorare sugli orari degli autobus che servono la zona. Palestra e aule didattiche saranno comunque mantenute. Fabia Dell'Antonia, dirigente Istituto Comprensivo Dante di Trieste. Quindi il problema mensa è risolto, ho richiesto un'ulteriore aula e pare che sarà possibile per la mensa del doposcuola, perché noi abbiamo anche il doposcuola e abbiamo delle aule dove potremo mettere la biblioteca e alcune attrezzature che abbiamo comprato. Certamente un po' più piccolo lo spazio rispetto alle aule in più che avevamo alla Sauro, però non perdiamo tutti gli spazi. Anche i 330 studenti della media Corsi si sposteranno al Molo IV. Il 3 gennaio si deciderà se ad ospitarli sarà la struttura del centro congressi, che ha dato la sua disponibilità, o alcuni prefabbricati che saranno costruiti nel parcheggio e che, assicura il comune, rispetterebbero tutti gli standard di un'aula scolastica. Roberto Benes, dirigente Istituto Comprensivo Via Commerciale di Trieste. Io sono convinto che in realtà ci sarà riusciremo a mantenere il nostro bacino d'utenza e il Molo IV sarà un buon posto in cui andare a stare e le attività didattiche proseguiranno regolarmente. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Dicembre, tempo di tredicesime, ma non per tutti, è il caso dei lavoratori di un gruppo di call center che ha sede anche a Trieste. Tredicesima gennaio per i lavoratori del gruppo di call center HCI Coinè, che ha sede anche a Trieste. Una decisione che l'azienda ha attribuito a problemi di liquidità e al mancato accesso a un fondo di finanziamento che la società aveva richiesto proprio per ottemperare al problema. La comunicazione, arrivata 2 giorni dal Natale, ha suscitato la reazione dei sindacati, che hanno puntato il dito anche contro la scarsa trasparenza da parte della Coinè, colpevole di aver aspettato fino all'ultimo prima di informare i suoi dipendenti, che a Trieste sono 60. Un messaggio dai toni vaghi hanno denunciato le sigle sindacali, in cui non venivano specificati nemmeno i tempi né le modalità del pagamento, e che suscitava dubbi sulla solidità stessa del gruppo e sulla stabilità dei pagamenti futuri, soprattutto in un periodo in cui la società, che tra i vari impieghi gestisce l'assistenza telefonica del gruppo ERA, è impegnata nell'acquisizione di nuove sedi con relative assunzioni. Di fronte all'agitazione dei sindacati, che hanno chiesto il pagamento immediato delle tredicesime, è arrivata poi la risposta della Coinè a chiudere, o quasi, la questione. Le tredicesime saranno pagate, hanno comunicato, entro il 5 gennaio. Una precisazione che calma le acque, almeno per il momento. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti religiosi odierni. A Trieste l'arcivescovo Giampaolo Crepaldi presiederà in cattedrale l'ufficio delle letture, la Santa Messa alle 23:30. Domani alle 10:30 è prevista in cattedrale la celebrazione eucaristica della Natività del Signore, alle 18, sempre in cattedrale, i secondi vespri della solennità. L'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, presiederà il solenne pontificale in Duomo alle 24, domani dopo la messa in carcere. L'appuntamento di nuovo in Duomo alle 10:30 e alle 17 i vespri, lunedì, la messa nel carcere di Tolmezzo. A Gorizia l'arcivescovo Carlo Maria Redaelli celebrerà alle 10 la messa nella casa circondariale di Gorizia, alle 24 in calendario la messa nella notte di Natale in cattedrale. Domani alle 10 Redaelli celebrerà la messa in Sant'Ignazio. A Pordenone il vescovo Giuseppe Pellegrini sarà alle 9 in visita al carcere, alle 21 la messa in ospedale, a mezzanotte alle grotte di Pradis la messa della vigilia. Domani alle 7 messa di nuovo in ospedale, alle 9:30 a Concordia Sagittaria, alle 11:30 in concattedrale. A Trieste la comunità religiosa serbo-ortodossa festeggerà la ricorrenza del proprio patrono, San Spiridione Taumaturgo, con un vespro solenne alle 17. Torna alla dimensione originaria il Natale subacqueo al lago di Cornino, in cui il presepe galleggiante con il bambino Gesù emergerà dalle profondità fra le braccia dei sub dell'ASD Friulana Subacquei. Le statue andranno poi a comporre la scena della natività al centro del lago. Celebrerà il rituale Monsignor Sergio De Cecco, parroco di San Daniele Forgaria. Appuntamento alle 20:30. Ne abbiamo parlato con Ernesto Milan, presidente della Friulana Subacquei. Abbiamo già predisposto, lavorando già dall'ultima domenica di novembre, predisponendo tutte le statue, sono già nella superficie del lago. Sono messe nei bordi e nel centro del lago abbiamo predisposto La culla è subacquea e quindi ci sarà la stella che verrà portata dai sub al centro del lago con la Sacra Famiglia. Il bambinello emergerà dall'acqua in mezzo a delle luci e delle bolle e verrà adagiato nel suo posto nella mangiatoia. E a quel punto le statue si avvicineranno e scenderà una stella cometa, anch'essa illuminata, e tutti i subacquei presenti scenderanno sotto la superficie dell'acqua per fare gli auguri e vincolare le statue ai bordi della stella. Questa è la manifestazione. Serve un po' di lavoro, un po' di allenamento. Saremo circa una trentina di subacquei in acqua, capitanati dal nostro decano che si chiama Lady Vidussi, che celebra questa cerimonia cambiata negli anni dal 1973, salvo alcuni anni che l'anno del terremoto e l'anno della pandemia e poi c'è stato anche del maltempo. Quest'anno è la 48esima edizione, predisponiamo tutto l'esterno illuminando la stradina, i sentieri e illuminando anche tutti i bordi del lago. Il Comune di Trieste informa che nelle giornate di domani e di sabato 31 dicembre la chiusura dei musei sarà anticipata alle 14. Tutti i musei saranno chiusi nelle giornate di domenica 25 dicembre e domenica 1 gennaio. Chiedo scusa, al Comune di Trieste informa che nelle giornate di oggi e di sabato 31 la chiusura dei musei sarà anticipata alle 14. Aperti con orario festivo lunedì 26 musei storici e artistici come il Museo Revoltella e il Museo della Risiera di San Sabba, oltre ai musei scientifici. Non visitabili perché chiusi per riallestimento o trasferimento in altre strutture come l'acquario marino, il museo del Risorgimento e il museo della civiltà istriana, fiumana e dalmata. Ancora a Trieste, l'allestimento dell'immaginario scientifico al magazzino 26 del Porto Vecchio sarà accessibile dalle 10 alle 14. A Pordenone il PAF, Palazzo Arti, Fumetto Friuli, accessibile dalle 10 alle 18. Numerose oggi le aperture delle mostre delle sedi dell'ERPAC, l'ente regionale patrimonio culturale, durante le festività natalizie. Ne abbiamo parlato con Stefano Caso, responsabile comunicazione di ERPAC. Io partirei da Trieste, dal magazzino delle idee, con la mostra L'Italia e l'Alliance Graphique International, 25 grafici del Novecento, che oggi è aperta dalle 10 alle 14. Poi sempre a Trieste abbiamo la Natività di Gesù nell'atrio del Palazzo della Regione di Piazza dell'Unità d'Italia. Si tratta di un'esposizione di un dipinto olio su tela proveniente dalla parrocchia di San Giacomo Apostolo a Fogliano Re di Puglia. A Gorizia invece oggi siamo aperti dalle 9 alle 13 al Museo della Moda e delle Arti Applicate di Borgo Castello con le mostre 2, Tra la Terra e il Cielo, i meravigliosi ricambi delle Orsoline e Le Orsoline a Gorizia, un filo prezioso lungo 350 anni. A Gradisca di Sonzo siamo aperti oggi con la mostra inaugurata da pochi giorni, Soft Sass Spazzapan, alla Galleria Regionale d'Arte Contemporanea Luigi Spazzapan, aperta appunto dalle 10 alle 13. Passiamo invece a Villa Manina, Passariano di Codroipo, dove abbiamo la mostra Pasolini sotto gli occhi del mondo, che è aperta oggi dalle 10 alle 14. E poi abbiamo tutta una serie di altre sedi espositive di ERPAC, dove non sono in corso mostre, ma che vale sempre la pena di visitare. Oggi, ad esempio, è aperto dalle 9 alle 13 il Museo della Grande Guerra a Gorizia. Poi sempre a Gorizia abbiamo aperto dalle 10 alle 18 la Pinacoteca di Palazzo Attems Petzestein, e poi a San Vito al Tagliamento invece il nostro Museo della Vita Contadina è aperto dalle 10 alle 13, mentre il Museo dell'Immigrazione di Cavasso Nuovo è aperto oggi dalle 10 alle 13. Parcheggi gratuiti a Gorizia fino al 31 dicembre, provvedimento approvato dalla Giunta, obiettivo dare aiuto economico alle famiglie, una boccata d'ossigeno agli esercizi commerciali, sperando anche di incentivare gli acquisti a chilometro zero. Confcommercio lancia sito web, mappe e percorsi per la valorizzazione dei locali storici di Trieste, tra cui caffè, botteghe e farmacie, per valorizzarli anche in chiave turistica. 61 i locali storici attualmente censiti in città, raccolti nel progetto sostenuto da Promoturismo, Fondazione CR Trieste e patrocinato dal Comune. Per fregiarsi del riconoscimento di locale storico, l'impresa deve vantare una permanenza ininterrotta sul mercato per almeno 60 anni, l'ubicazione in un edificio di interesse storico e la presenza di arredi e strumentazioni di riconosciuto valore artistico. In regione i negozi riconosciuti come locali storici sono 398, di cui 227 in provincia di Udine, 74 in quella di Pordenone, 36 nell'Isontino, oltre appunto ai 61 dell'ambito giuliano. Lo sport con il calcio: l'Udinese ha battuto 2-0 il Lecce in una amichevole che ha già il sapore della ripresa di campionato dopo gli impegni dei mondiali in Qatar. Dopo un salvataggio di Silvestri su Di Francesco, i friulani hanno sbloccato la gara al 23esimo con Beto, il raddoppio è arrivato in avvio di ripresa con Perez. La squadra di Sottile è andata anche vicina al Tris, ma la traversa ha fermato il colpo di testa di Biol. L'Udinese sarà ospite della Cremonese il 29 dicembre, ultima uscita prima della ripartenza in campionato il 4 gennaio, quando allo stadio Friuli Dacia Arena arriverà l'Empoli. Sono le 7:46 minuti, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani che oggi trovate in edicola. La conferenza stampa di fine anno di Fedriga è il titolo di apertura dell'edizione di Trieste del Piccolo, e nell'interno, tra le affermazioni del governatore uscente, figura quella sugli investimenti e la cultura, che lui dice essere cresciuti del 28%. ancora politica con la candidatura di Cooperlo, che dichiara di sapere di non essere favorito ma di voler agire contro il disfacimento del partito. La notizia è riportata anche con interviste sui quotidiani nazionali. Fotonotizia per il raduno di nuovi triestini provenienti da diverse nazioni che si è svolto in Piazza Unità, capocronaca interno, l'iniziativa di Confcommercio della mappatura dei locali storici cittadini. Per la cronaca giudiziaria, la presentazione della relazione definitiva dei medici legali sul decesso di Liliana Resinovic, il cui cadavere è stato ritrovato lo scorso gennaio nell'area boschiva dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Nel referto la morte è ricondotta all'asfissia. Raffaele Barisani, consulente del marito della Resinovic, dichiara che gli elementi emersi renderebbero improbabile il suicidio. Didattica e nuova ricerca, le sfide dell'università. Il Messaggero Veneto di Udine apre sull'investimento da 30 milioni per l'Ateneo e l'apertura dell'anno accademico a gennaio con il ministro Bernini. Nella fotonotizia, all'ospedale di Udine altri posti letto per alleggerire il pronto soccorso, ne abbiamo parlato, accanto un titolo per la violenza di gruppo a Lignano. Sopra, il candidato sindaco di Udine del centro-sinistra, Alberto Felice De Toni, il mio decalogo per rilanciare la città. E sotto, sempre di spalla, l'arpello dell'arcivescovo Mazzoccato: a chi sarà eletto dovete pensare al bene comune, dice. In prima anche il governatore Fedriga, legislatura che ha gestito le emergenze. E in taglio alto il turismo, sui monti quasi tutto esaurito, l'unica minaccia è l'influenza. Sul Gazzettino Fedriga chiede la soprintendenza regionale. Nella fotonotizia anche qui pronto soccorso, la protesta diventa sit-in, accanto a mense scolastiche la mazzata più costosa del 10% e di spalla la denuncia ai carabinieri di la tisana del proprietario di un cane che dice lo hanno rapito. Poi il welfare dell'azienda Alfa Sistemi, maggiordomo aziendale e ora anche lo psicologo. In basso il calcio, Beto e Perez fanno sorridere l'Udinese e il basket, Apu Udine prende Monaldi e cede L'apertura di un fascicolo di indagine per la morte di Anisia Mamic, 18enne di origine bosniaca e residente a Ronchi dei Legionari, che è deceduta nella notte tra giovedì e venerdì nella sua abitazione in seguito a un malore, è l'apertura dell'edizione di Gorizia del Piccolo. Il quotidiano informa anche sull'autopsia già eseguita ieri al corpo della giovane. La ragazza nei giorni scorsi si era sottoposta a degli esami al pronto soccorso dell'ospedale San Polo, da cui non era emerso nulla di grave. Spazio poi alla proposta di partenariato presentata da Fincantieri per la manutenzione del MOSE per le barriere di Lido, Malamocco e Chioggia, un'attività che in caso di buon esito porterebbe per 11 anni nelle casse di Fincantieri un canone annuale di 57 milioni di euro. La gara potrebbe essere realizzata già a gennaio. Capocronaca interno, la rimozione dei teli che coprivano la facciata di Palazzo Paternolli, i cui lavori per l'allestimento della Casa dello Studente dovrebbero essere terminati entro novembre. Dalle pagine di Monfalcone, i contributi regionali a comuni e aziende privati per rimuovere l'amianto dagli edifici, che prevede un fondo di 800.000 euro. Sul Gazzettino di Pordenone la foto è quella di un attacco, un volatile sul tavolino di un bar di Fanna, tutti pazzi per Gigia, regina di dispetti. Accanto la città si ferma per l'omaggio a Don Luciano Padovese, fondatore della Casa dello Studente. Di spalla a Pordenone, privati all'assalto degli spazi del Bronx, e sotto la protesta dei genitori, basta compiti per le vacanze, troppi impegni, ragazzi sommersi dai libri. In taglio basso lo sport con il calcio. Il presidente del Pordenone Lovisa che dice coltiviamo il nostro sogno. Accanto il volley di A2 con il Tinet Prata a Porto Viro lunedì per allontanarsi dalla zona retrocessione. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali odierni. Il calendario di eventi natalizi del Comune di Pordenone prevede l'apertura delle porte della sala del Consiglio Comunale con la visita al Palazzo Municipale alle 11. Animazione e laboratori creativi per giovanissimi sono in cartellone in Piazza Risorgimento alle 14. In tutta la giornata la sosta sarà gratuita sia nei parcheggi multipiano in struttura sia nei parcheggi blu su strada. La camminata meditativa sui colli di Sequals verso il castello di Solimbergo avrà come punto di ritrovo il posteggio di via Ellero a Sequals alle 10.45. La notte di Natale sul balcone del Friuli è in programma a Faedis nella Valle di Suffumbergo con la messa di Natale delle 21.30 e accompagnamento musicale del gruppo sax di Sedegliano diretto dal maestro Angelo Di Giorgio. E apre la stagione dello sci di fondo a Timau di Paluzza nella pista Laghetti con l'inaugurazione secondo l'orario di apertura dalle 9 alle 16.30 e ora sentiamo le anticipazioni della rubrica Il Settimanale. Torna il settimanale in questa puntata. Cenone senza troppo badare a spese, tra crisi e rincarichi può, si concede ugualmente qualche piccolo lusso. Le vie di Assisi e le spettacolari proiezioni degli affreschi di Giotto. Super lavoro per le poste in questo periodo, come funziona nello stabilimento di smistamento per il nord-est. I presepi di tutte le dimensioni costruiti nei tronchi di ulivo da un artigiano toscano. Il Natale da campione del mondo MotoGP di Pecco Bagnaia e i ricordi degli inizi. Vino rosso pugliese e cioccolato piemontese, abbinamenti arditi per le tavole natalizie. A Palermo, ricordando Franco e Ciccio, il popolarissimo duo comico. Oggi nel settimanale 12.25 Rai 3. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con Biblos, puntata natalizia dedicata ai libri per l'infanzia, poi il progetto Mamma Lingua, storie per tutti, nessuno escluso, un progetto nazionale che promuove la lettura nelle diverse lingue madri e l'integrazione di diverse comunità. Ci sarà la referente regionale Roberta Garlatti. È tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale in regia Val. Walter Vidonis, Paolo Cassano, in redazione ha collaborato Samantha Gon. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.